giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Buona serata e ben trovati da Francesco Galante. Questa sera, con il nostro speciale dedicato agli appuntamenti, gli incontri, i convegni più interessanti organizzati in diocesi, torniamo a Cittadella per concludere l'ascolto del ciclo di Cittadella Ascolta, dal titolo La speranza scartata, organizzato dalle parrocchie del Vicariato. Ultimo ospite Luca Pancalli, 3 medaglie d'oro alle Paralimpiadi di Seul, commissario straordinario della Federcalcio nel 2006, tanti anni di impegno con responsabilità di prestigio nel movimento paralimpico. Tema della serata, la speranza coltivata attraverso lo sport. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Quindi ho capito che ero stato straordinariamente fortunate. Ora oggi mi sento straordinariamente fortunato perché ho tanti amici che stanno molto peggio di me, che sono diventati tetraplegici molto gravi, che continuano ad avere bisogno di tutte le cose di cui io ho avuto bisogno per un periodo della mia vita. E allora lì è scattata la consapevolezza di quanto fossi ricco e di quanto il Signore mi avesse reso ricco, della consapevolezza di quello che mi era rimasto e del valore di ciò che mi era rimasto, ma soprattutto la consapevolezza di quanto potessi essere ancora più ricco se in grado di regalare qualcosa a tutti i miei amici, quelli come me, che non avevano, ai quali era andata peggio, non hanno avuto le opportunità che ho avuto io. Vedete, è molto semplice diventare qualcuno nello sport, nella professione, basta avere le giuste opportunità. Io sono stato una persona molto fortunata, anche nell'incidente. Dicevo, mi ha gettato le strade di tante persone disabili, quando io ho detto se io tornassi indietro vorrei esattamente la vita come l'ho avuta, compresa l'incidente. Ma per un semplice motivo, molto materiale se volete, perché se tornassi indietro il Signore mi dicesse, guarda, se vuoi puoi decidere, quell'ostacolo te lo faccio superare, magari da cavallo. L'incertezza di quella che sarebbe la mia vita da normo dotato rispetto alla certezza di tutto ciò che mi ha regalato la vita da disabile, mi tengo la mia vita da disabile, perché nella mia vita da disabile ho colto, ho apprezzato e mi sono arricchito di tantissime cose, anche della possibilità di aiutare, come spesso facciamo tra di noi, chi sta peggio di noi, magari soltanto se prendendogli la carrozzina piuttosto che aiutandoli ad andare al bagno. Allora questo ci rende ricchi, ma questo ci rende consapevoli che il nostro lavoro, noi dobbiamo utilizzare il lavoro non chi si sofferma alla punta dell'iceberg, i 100 nostri campioni famosi, perché saranno 100, rischia di perdere di vista quella che è la mission dello sport nel mondo della disabilità, che è esattamente quella che dicevi te nell'incipit, che è qualcosa di completamente diverso. Noi abbiamo fatto un percorso, spiegavo una cordialissima cena a casa del Monsignore questa sera mentre parlavamo, che io tutte le volte che prendo un bicchiere e bevo, oggi riesco a dare un valore a quello che sto facendo, cose che magari voi non gli date un valore perché è un gesto che fate tutti i giorni, ma per voi è normale compierlo, perché non avete mai provato quello che significa non poterlo fare. E allora vi rendete conto di quanto siete ricchi nel momento in cui non potete più farlo. Io vedo un amico al quale è andato molto peggio di noi, però sicuramente riesce a capire quello che, al quale mi riferisco. Io da molto tempo avevo bisogno di qualcuno che mi facesse bene, il fatto che oggi lo posso fare, ogni volta ringrazio il Signore che riesco a fare. E allora probabilmente il fatto che ci sia tolto qualcosa è quello che ti fa apprezzare quello che è e ti fa dare un valore a quello che ci è rimasto. Però se noi possiamo essere utili con le nostre esperienze, con le nostre vite, con le nostre storie, a fare apprezzare a chi non gli è stato tolto nulla quello che ha, beh, noi forse ne saremmo ancora più contenti. Cioè, non è che tutti per apprezzare qualcosa gli deve essere necessariamente tolto qualcosa, però lo sforzo nell'umiltà, che bisogna essere umili di comprendere quanto siamo ricchi nel poter vivere la nostra vita, poter gioire della nostra vita, poter dare sostegno, aiuto a chi sta peggio di noi, io credo che quella sia la ricchezza più profonda. Vedete, io sono un po' in imbarazzo, io questo percorso l'ho fatto negli anni, da arrabbiato, sto pure un po' in difficoltà a parlare, sono da un sagrato, francamente, e da arrabbiato, da persona che ha fatto un percorso molto complicato, molto complesso, anche da giovane piuttosto animato, anche nella politica giovanile, di un certo tipo, a persona che ha 53 anni a fare dei discorsi completamente diversi, ma perché ho una splendida figlia di 20 anni, uno splendido figlio di 17 anni, una bella famiglia, mi rendo conto vedendo loro quello che paradossalmente mi è stato regalato quel 25 giugno del 1981 quando caddi da cavallo e rimasi sulla carrozzina. Allora diciamo, tutto questo che ci azzecca perché ciascuno di noi è così com'è perché è frutto di un percorso, e Questo percorso noi in parte l'abbiamo fatto tutti separatamente, perché tutti noi abbiamo avuto incidenti, problemi di un'altra natura, ma poi ci siamo ritrovati intorno ad un obiettivo, ci siamo ritrovati intorno a una passione, e lì nasce l'idea dello sport come strumento di inclusione, come strumento di integrazione, come strumento di partecipazione, come strumento per cambiare la percezione della disabilità nel mondo, affinché la gente possa capire ciò che un disabile, una persona disabile può fare. Vedete, il raccontare le storie dei nostri campioni non è importante solamente perché sono dei grandi atleti e di fronte ai quali bisogna solamente avere l'umiltà di riconoscere il loro valore, ma raccontare quelle storie significa raccontare una società e un mondo che noi vorremmo, la metafora della vita e della quotidianità che noi vorremmo potesse essere garantita nelle nostre vite, ovvero sia quella delle pari opportunità. Noi sostanzialmente nel mondo dello sport che cosa facciamo? Mettiamo nelle condizioni i nostri ragazzi di esprimersi al massimo delle loro possibilità, secondo quello che possono fare e non secondo quello che non possono fare, sia che si abbiano un disagio intellettivo, sia che abbiano una paraplegia, una amputazione, sia che siano non vedenti come il mio amico Remo che vedo qui nelle prime file. Quindi noi li mettiamo nelle condizioni di esprimere le loro abilità, che è sostanzialmente quello che dovrebbe accadere in una società che si dice civile, in una società che comprende che è importante investire non soltanto per la crescita del prodotto interno lordo, ma è importante investire per la crescita della cultura del paese. È importante investire sul capitale umano di un paese, e investire sul capitale umano significa investire sulla consapevolezza degli uomini e delle donne di questo paese, affinché loro possano fare di tutto per mettere tutti nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità, quello che noi definiamo le pari opportunità. Questo sembra banale, ma non è banale, perché noi fino a un po' di anni fa, ma ancora oggi, la maggior parte delle persone del livello di disoccupazione delle persone disabili rispetto al tasso di disoccupazione degli abili è spaventosamente alto, ma perché c'è l'assioma errato che parte da una cultura disabilitante per il quale non si riesce a vedere in una persona disabile una risorsa, perché la persona disabile viene vista e viene vissuta dal mondo datoriale come un peso. Allora dice, vabbè, ma questo che ci azzecca? Zanardi, con Morlacchi, piuttosto che con Martina Gaironi o Beppe, ci azzecca, perché noi nel momento in cui riusciamo a far arrivare questi grandi campioni a far parlare di sé, vogliamo comunicare quello che si può arrivare a fare nel momento in cui noi mettiamo nelle condizioni queste persone di potersi esprimere secondo le loro abilità residue. E se noi potessimo fare, coltivare questo in una società migliore, nei percorsi di riabilitazione, nei percorsi di formazione, nei percorsi di istruzione, nei percorsi garantendo percorsi formativi per l'inserimento al lavoro, noi avremo, lo disse Roosevelt, quindi immaginatevi quanti anni fa, trasformiamoli da assistiti in contribuenti e faremo del bene a loro e al nostro paese. La cosa più semplice di questa terra. E allora vedete che in questo caso noi abbiamo trasformato un movimento sportivo, e lo viviamo sostanzialmente così, nella consapevolezza che ci occupiamo di sport, ma nella consapevolezza che noi vogliamo declinare il nostro sistema sportivo con la convinzione che lo sport, che non è quello che nell'immaginario collettivo magari è preponderante come idea, quando voi pensate, se fermate chiunque per la strada, che cos'è lo sport, vi dirà Olimpiadi, campioni del mondo, il calcio, Cittadella, piuttosto che la Roma, la Lazio, passiamo un attimo un po' più su di livello, da Cittadella, Roma, questo è lo sport nell'immaginario collettivo. Nessuno vi dirà mai che cos'è lo sport. Lo sport è uno straordinario strumento di politica attiva per far crescere un paese, nessuno vi risponderà mai questo. E però lo sport è questo, perché lo sport è quello che mette dentro un campo ragazzi di religione diversa, di colore diverso in una stessa squadra, e integra, abbatte le barriere. È quello che mette in una squadra di basket in carrozzina ragazzi normodotati a giocare in carrozzina, trasformando uno sport particolare per persone, tra virgolette, particolare in uno sport di tutti. Dice, vabbè, ma chi lo percepisce? Forse noi no, perché noi stiamo promuovendo tutto questo, ma è questo quello che probabilmente noi speriamo, che auspichiamo, con Oscar, con Salvatore, con i nostri amici, tra 40 anni, 50 anni, forse grazie allo sport, avremo garantito maggiore integrazione, maggiore inclusione. Guardate che noi abbiamo educato questo paese e la comunicazione di questo paese, troppo attenta ad attenzioni sciatte rispetto a cronache spesso che rappresentano, come dire, delle devianze rispetto a una comunicazione corretta. Noi abbiamo educato la comunicazione a utilizzare, almeno nel nostro movimento, sempre meno l'aggettivazione della disabilità. Cioè, noi abbiamo cominciato quando nel 2000 prendemmo in mano, parlo sempre a plurale, poi un uomo da solo non fa nulla se non ha un'ottima squadra, Remo se lo ricorderà bene. Noi nel 2000 abbiamo cominciato a costruire un puzzle e nessuno capiva, quando noi facevamo le nostre riunioni, dove andavamo. E Remo se lo ricorderà, io dicevo sempre, calmi, poi all'improvviso con un puzzle tu capisci verso la fine quello che stavi costruendo. E cominciamo a usare il termine paralimpico. E i giornalisti, atleta disabile, e noi continuavamo a parlare da paralimpico. Oggi non c'è giornalista che per identificare il nostro atleta non usi il termine paralimpico. Dicevo, vabbè, ma che cambia? Cambia tutto. Perché io ho tolto un'aggettivazione che fa riferimento a una corporeità, quindi diventa un minus rispetto a una negatività, da un'aggettivazione che identifica un movimento sportivo e non una corporeità. L'atleta disabile è disabile, l'atleta paralimpico è un atleta che si inserisce in una dimensione paralimpica. E questo è il modo con il quale noi partecipiamo all'idea di poter far crescere un paese, il fatto di coltivare la speranza, il coraggio, lo facciamo andando nelle unità spinali, con Oscar, lo facciamo andando negli ospedali, nei centri di riabilitazione, raccontando le nostre storie, le nostre esperienze, dando la possibilità a qualcuno di immaginare, di poter sognare che ci possa essere una bella vita. Poi ovviamente tutto è relativo, ma ci possa essere una bella vita anche se ci è cambiato qualcosa, chi più e chi meno. Vedete, la cosa più bella di questa filosofia con la quale noi stiamo abbracciando il nostro impegno da diversi anni è che noi vogliamo lasciare un segnale tangibile in termini anche di umiltà. Noi alle recenti Paralimpiadi di Rio de Janeiro, al di là delle medaglie, al di là del fatto che con la televisione ormai siamo riusciti a contagiare virtuosamente la comunicazione, al di là del grande successo che nessuno lo racconta, ma la RAI, tanto vituperata RAI, è stata per l'ennesima volta dopo Londra a Rio de Janeiro il secondo network televisivo al mondo per ore di diretta sulle Paralimpiadi. Ogni tanto le cose che noi italiani facciamo belle non le raccontiamo. In nessun paese al mondo, a parte Channel 4 e britannico, nessun paese al mondo ha avuto la stessa copertura televisiva che ha avuto l'Italia, sia a Londra che a Rio de Janeiro. È stato un lavoro duro, non è che la RAI si sia folgorata sulla via di Damasco, ma che belli, non ci voglio fare disastri, non è così. Ci abbiamo lavorato lentamente, io personalmente ho consumato copertoni delle mie ruote a fare anticamere, però piano piano, una goccia dopo una goccia, alla fine si sono innamorati di un mondo, e chi si avvicina al nostro mondo si innamora del nostro mondo e ne rimane contagiato, perché è un mondo che è fatto sì di un ricordo di sofferenza, sì di una memoria perdita di speranza, ma è fatta anche di una quotidianità di gioia, di divertimento e di, come dire, una prospettiva nel futuro di poter regalare qualcosa in più a chi oggi purtroppo magari sta vivendo le stesse condizioni che abbiamo vissuto noi tanti anni fa. E allora noi abbiamo deciso, sempre con umiltà che vogliamo contraddistinguere il nostro movimento, di organizzare la nostra Casa Italia, che è un luogo che accompagna normalmente Olimpiadi e Paralimpiadi, in una parrocchia nella zona più povera di Rio de Janeiro. Inizialmente, quando io proposi questa idea, devo dire che anche a mio consiglio un po' di perplessità ci sono state, perché la Casa Italia è sempre un luogo molto, soprattutto quella olimpica, un luogo molto VIP, una cosa bella, cioè. Però io mi sono reso conto che la cosa più bella poi, cosa della quale spesso parliamo con Oscar Ruggero, è ritrovarci di fronte magari a un bicchiere di vino e ricordare noi che veniamo da lontano come abbiamo vissuto il nostro movimento. Per cui ho voluto segnare il nostro passaggio in un paese dove sapevamo perfettamente che spenti i riflettori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, le forti contraddizioni sociali di quel paese sarebbero continuate così come erano prima. Per cui al di là di tutti i frizzi, lanze e codions della festa, lì facete un chilometro e ci stanno centinaia e centinaia di migliaia di persone, milioni di persone che muoiono di fame, che vivono in una condizione di estrema povertà. E allora dice, vabbè, ma noi che possiamo fare? Certamente potevamo tenere abbassati i riflettori sulla nostra Casa Italia, potevamo essere umili tra gli umili, e abbiamo organizzato Casa Italia in una parrocchia, donando all'arcidiocesi di Rio quelle somme che avremmo speso per affittare un bel locale in un albergo piuttosto che in un club privato, come magari si era soliti fare nel passato. Organizzandola in una parrocchia, devo dire che abbiamo creato problemi pure al parroco, che inizialmente non pensavamo, ma è stato bello perché i pasti, noi normalmente con gli atleti andavamo la sera, durante il giorno era aperta ai poveri delle favelas che venivano a mangiare, e il nostro uomo, il nostro chef cucinava per loro, ai bambini, alle ragazze madri. Siamo andati in un'altra parrocchia vicino, ancora più dentro, una favelas, e con quei soldi hanno fatto un bagno per disabili nella parrocchia che non avevano, hanno costruito dei campetti per ragazzi non vedenti. Ecco il segno di un passaggio. Allora il mondo paralimpico, quando io dico adesso noi siamo diventati ente pubblico, tutti arrivate, siete presi un pezzo di potere. Noi non ci siamo presi un pezzo di potere, noi abbiamo dato legittimazione e dignità a un'idea. Il Comitato Paralimpico non è un'organizzazione, è un'idea, è una convinzione, è una famiglia che porta avanti un'idea, è quella di utilizzare lo sport per far arrivare i grandi campioni, ma per tentare di cambiare anche il paese, di comunicare un paese che guarda al futuro partendo da straordinarie storie di sofferenza, sì, straordinarie storie di sofferenza. E allora tutto questo ovviamente mi racconta, o meglio mi porta alla memoria, una frase che mi diceva sempre il mio maestro quando ero molto più giovane all'università, mi diceva sempre, ricordati Luca, che nella vita bisogna riuscire a dimostrare di poter realizzare qualcosa pur non essendo nulla, partire dal nulla, e noi tutti siamo partiti dal nulla. Mio padre era un semplice impiegato, mia madre era insegnante, Oscar si è rivoltato con un trattore, Ruggero non mi ricordo come si è fatto male, almeno salvato, ma tutti noi siamo il nulla, però insieme abbiamo creato qualcosa che non rappresenta il nulla ma rappresenta tantissimo per tanti ragazzi. E allora noi vorremmo declinare lo sport in questa dimensione, vorremmo poter mettere nelle condizioni i nostri ragazzi e le famiglie dei nostri ragazzi di sapere che c'è una speranza di divertimento, una speranza di contagio virtuoso della società. Vedete, la cosa più bella che io ho riportato da Rio non sono le 39 medaglie dei miei atleti, ma la 40esima, e questo l'ho detto pure quando siamo andati dal Quirinale a riportare il tricolore al presidente Mattarella, quella 40esima medaglia rappresentata dalle migliaia di mail che mi sono arrivate mentre eravamo a Rio, di persone normali come voi, che magari non avevano mai visto un disabile in vita loro, e che sono rimaste affascinate dall'immagine dei nostri atleti. Io ne porto nel cuore una di un signore che mi ha scritto, dice, guardi presidente, io non ho parenti disabili, non ho mai visto forse un disabile in vita mia, nemmeno lontanamente, sono uno pure di quelli che mi parcheggia sul posto, lo ammetto e mi autoaccuso, però io guardavo le Olimpiadi e dopo un po' mi annoiavo. Un giorno mi sono imbattuto nelle Paralimpiadi, mi avete affascinato, le ho fatte vedere ai miei figli tutti i 15 giorni fino alla fine. Allora, in queste poche parole, una persona per bene di questo paese, voi capite come può cambiare la cultura di un paese. Quell'uomo noi l'abbiamo reso, grazie ai nostri atleti, un uomo migliore, forse non parcheggerà più sui nostri parcheggi, e forse sarà più cittadino tra i cittadini, forse sarà una persona più disponibile rispetto alle esigenze di chi ha maggiori difficoltà, che porta con sulle spalle maggiori sofferenze. E tutto questo attraverso lo sport, attraverso un'organizzazione la cui mission è quella di cambiare la percezione della disabilità nel mondo, anteporre il concetto della persona a quello della disabilità, anteporre il concetto del diritto di cittadinanza a quello dell'assistenza, anteporre il concetto dei diritti a quello della solidarietà e del solidarismo becero. Non che la solidarietà sia negativa, ma la solidarietà deve essere preceduta dal riconoscimento dei diritti e accompagnare il riconoscimento dei diritti. Tutto questo lo si fa anche attraverso lo sport, lo si fa ideologizzando lo sport, lo si fa trasformando in politica attiva lo sport. Questo non significa che noi siamo dei politici, ce ne guardi il signore, siamo solamente persone che riteniamo che la nostra esperienza sportiva vada in questa direzione. E guardate che, parlando di comunicazione, se voi riflettete un attimo solo su due termini che nel gergo giornalistico sportivo sono assolutamente di consuetudine, quando sentite parlare magari del calcio piuttosto che del basket, l'assist è un termine gergo sportivo, giornalistico, ma l'assist non è nient'altro che cosa? Nella definizione d'immagine, la partecipazione di un mio gesto ad un'azione comune che un mio compagno sta facendo per realizzare un obiettivo, il gol. Se l'assistenza, che viene normalmente collegata in una dimensione di negatività, tutto ciò che è assistenza in questo paese oramai quasi rappresenta un peso per il paese, perché le risorse per le politiche sociosanitarie mancano, cioè. Ecco, immaginate dello sport, l'assist è esattamente la partecipazione a un'azione comune per la realizzazione di un obiettivo comune. In inglese il goal è l'obiettivo. Pensate al testimone, quello che si passa nella staffetta dell'Atletica d'Agera. Beh, la partecipazione attraverso una testimonianza in una medesima traiettoria comune rispetto all'obiettivo. Ecco, allora voi vi rendete conto che lo sport, per questi motivi, non può essere banalizzato e declassato nel racconto di una medaglia, perché il racconto della medaglia è importante, ma lo è ancor di più la storia che sta dietro quella medaglia, e la storia di uno sport e di uno strumento che deve farsi, come dire, risorsa per il paese. Allora io poi qui la chiudo, perché poi quando comincio a parlare di queste cose rischio di a volte di interrogarmi me stesso che cosa sto dicendo, a volte mi viene il dubbio di dire qualcosa di non assennato, però poi ovviamente sono disponibile a qualsiasi forma di sollecitazione. Però vi voglio lasciare una cosa che io mi porto sempre dietro, perché per me è la rappresentazione di quel credo rispetto alla vita, rispetto all'impegno sportivo, ma soprattutto alla vita, che ritengo si debba portare avanti. Il Comitato Paralimpico oggi è un ente pubblico, facciamo questo, lo facciamo finché ci saremo con questo spirito, il che non vuol dire denigrare poi le attività sportive agonistiche di alto livello, ma sapete che noi dobbiamo lavorare non per i 100 campioni, per il milione di ragazzi ai quali oggi è negato il diritto allo sport in questo paese per colpa di impianti inaccessibili, di barriere culturali. Non sempre l'inaccessibilità di un impianto è il primo impedimento all'attività sportiva, spesso il primo impedimento è che non ci sono istruttori adeguatamente formati a raccogliere una domanda di offerta sportiva, spesso il primo impedimento è la famiglia del bambino normale che ha difficoltà se nella corsia vicino magari c'è un figlio figlio, nostro figlio, con una tetraparesi spastica, perché magari io, guardate, una cosa la racconto con grande vergogna, e il Signore me ne darà atto, che insomma mi sono fatta ammenda. Io 3 giorni prima di cadere da cavallo e rimanere su una carrozzina, era l'81, chi si ricorderà che è vecchio come me, vecchio no, non esageriamo, insomma, un po' a grande come me, si ricorderà che era l'anno internazionale dell'handicappato nel 1981, allora si utilizzavano ancora queste sciante terminologie. All'acqua acetosa a Roma, che è un centro di preparazione olimpica, io ero con la nazionale diventato moderno preparandomi per questa trasferta, questo campionato del mondo dove poi ho avuto l'incidente. E c'era una competizione internazionale sportiva dove peraltro un canadese Bolt con una gamba sola saltò 2,04 metri, una sola gamba, eclatante, e vedevo tutti questi ragazzi girare per l'acqua acetosa, per questo centro di preparazione olimpica, con le loro carrozzine, con le gambe amputate, e insomma, noi eravamo i narcisi, noi nel pallone. Un giorno capitò che dovevamo entrare in piscina nel momento in cui uscivano questi ragazzi paraplegici, e mi ricordo che tra di noi, nell'ignoranza della quale mi vergogno, io vado nelle scuole a raccontare vergognandomi questa cosa a 17 anni, avevamo paura di entrare in acqua laddove erano entrati i ragazzi paraplegici, quasi fosse contagiosa l'acqua rispetto a una normalità, una cosa aberrante. La racconto con grande franchezza perché oramai ho pagato, perché dopo 3 giorni sono andato a cavallo, più di così non potevo pagare, il Signore non mi poteva andare. Però detto questo, vi fa capire quanta spesso è l'ignoranza rispetto, come dire, a quella che dovrebbe essere una vita normale. E allora è da lì che poi scaturisce l'umiltà che tutti noi dobbiamo portare con noi, tutte le cose che facciamo, nella consapevolezza che non le dobbiamo fare per noi ma per gli altri. E vi dicevo, e chiudo, porto sempre con me questa bellissima poesia che ha scritto Kilgore, che Kilgore era un giocatore di pallavolo, poi divenuto tetraplegico grave perché durante un allenamento in un esercizio si spezzò l'osso del collo, brutalmente detto, e rimase con una tetraplegia molto grave. Allenava, nonostante questo, allenato una squadra di pallavolo nelle serie maggiori, pallavolo in piedi, era un personaggio. Non è mai stato famosissimo, non ha mai calcato la scena di tanti altri nostri campioni, però credo che ha lasciato a noi una cosa che è di una bellezza straordinaria, che io vi voglio leggere e taccio, perché è più bello finire con le sue parole che non con le mie, che non sono nulla in questo mondo. Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Si lodato mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno ha ciò che io possiedo. Come ho avuto il piacere di dire all'inizio, penso che ogni parola fosse esattamente pesata nel modo giusto per qualificare l'ospite di questa sera. Devo anche dire che mi è parso di stare accanto ad un truffatore, perché l'abbiamo invitata per parlare di sport e, come avevo detto all'inizio, in realtà ci ha spiegato come cambiare il mondo, perché pensavamo ci parlasse di basket in carrozzina, di atletica e in realtà abbiamo visto come si può sfruttare un gioco per cambiare tutto ciò che abbiamo attorno, per fare cultura, per affrontare l'utilizzo del linguaggio che facciamo ogni giorno, per parlare parlare di integrazione, per vedere cosa fa la televisione con un occhio un po' più critico e con un occhio più attento a come può cambiarci anche la vita. Abbiamo parlato anche di edilizia, di ciò che manca in un gradino, in una chiesa, in un edificio, per farle sentire una persona con delle difficoltà completamente dentro alla comunità. E sostanzialmente, quando abbiamo parlato di sport e quando abbiamo parlato delle nostre vite, della vita del presidente, abbiamo parlato di come essere comunità, che nello sport è parlare di come essere squadra, e la squadra in ogni suo atleta ha il compito di prendersi cura di tutti gli altri, e siamo comunità per prenderci cura di quelli un po' più deboli e che hanno un po' più di difficoltà. E penso che questo sia una delle missioni del Comitato Italiano Paralimpico, e in questo risiede la speranza che dà a noi il Comitato Italiano Paralimpico, una speranza che coinvolge tutti quei ragazzi che possono arrivare a fare sport perché la loro disabilità glielo permette, come la mia ha permesso a me di fare sport, come quella dell'avvocato di arrivare a essere un campione paralimpico. Ma ci sono anche dei ragazzi che non ci arrivano, e la nostra attività, la nostra gioia, la nostra capacità di coinvolgere può cambiare anche la vita di quelli che non arrivano a fare le stesse cose che facciamo noi, quelli che ogni tanto definiamo un po' più sfortunati nella quantità di cose che possono fare. E visto che siamo qua dentro, è opportuno anche ricordare quello che ha detto nel weekend Papa Francesco, ovvero ci ha parlato di come il gioco, giocare insieme, sia uno strumento anche per tramandare la fede l'uno con l'altro. Lui diceva che aveva proprio imparato la fede giocando con i suoi amici, e quando i genitori gli chiedevano come essere migliori genitori, la sua risposta è stata: giocate con i vostri figli. E noi, io nel mio piccolo, da allenatore di una piccola squadra di basket in carrozzina, e il presidente ad un livello molto più alto, di fatto chiediamo a tutti di giocare, di divertirsi, di stare alle regole, e tramite questo siamo dei truffatori, passiamo dei messaggi un po' diversi: come è bello stare assieme, come è bello raggiungere gli obiettivi insieme, come è bello provare a piccoli passi, a testate, provando a spaccare i sassi con la testa, a cambiare il mondo e a cambiare ciò che ci circonda. Apro la parte delle domande facendo io una piccola domanda al presidente. Visto che alleno una squadra universitaria di basket in carrozzina di ragazzi con disabilità, voglio chiedere, nella sua vita ho capito qual è l'impatto dello sport, ma volevo sapere per lei l'educazione che impatto ha avuto l'educazione, la scuola, l'università, nel darle le occasioni che poi ha sviluppato nella sua vita. È chiaro che io ho questo premesso, sono stato un ragazzo fortunato, nel senso che il tesoro più grande che ho avuto è stata una famiglia alle spalle straordinaria, e che non mi ha mai fatto mancare nulla, ma soprattutto genitori che si sono sempre sacrificati per far studiare i miei figli, e soprattutto una madre che, questo lo racconto, insomma, è stata molto dura nei miei confronti, soprattutto dopo l'incidente, ma dura come mai avevo mai visto mia madre. Io mi aspettavo una madre molto più amorevole, visto che sono decappato, cioè un po' di colpo, un po' di pietà. Invece no, mia madre è stata molto dura, e mi ricordo che quando rientrai in Italia, dopo un anno, poco meno, che ero fuori all'estero per la riabilitazione, perché l'incidente, come vi ho detto, dall'estero, mi aspettavo grandi feste. La prima frase che mi disse mia madre, ancora non ero entrato dentro casa, aveva aperto solamente la porta, io già percepivo i profumi e gli odori di casa, no? Un anno d'Austria, già solo il sugo, sentivo il sugo e la pasta, sono già emozioni forti. Emozioni forti, di quelle che rimangono nella vita. Insomma, stavo entrando dentro casa, mia madre mi disse, lo ricorderò come fosse ieri, fermati là. Mi ha detto: Dio, che ho fatto? Ricordati una cosa, te lo dico adesso e non te lo ripeto più: entri dentro questa casa, non pensare pensare di essere tu diverso dai tuoi fratelli perché stai su quella carrozzina. Dal momento in cui entri, le regole che valevano prima valgono adesso. Tutto quello che potevi fare, che dovevi fare, lo devi continuare a fare. Secondo quello che puoi fare, ti devi mettere in ordine la casa, la camera, la roba fino all'altezza te la metti in ordine e dopo ci pensa mamma, le cose. E fu un grande insegnamento, perché essere trattato così di primo impatto da chi magari ti aspettavi che ti avesse sostenuto eccetera, mi ha fatto capire che forse non era dentro casa il nemico, ma era tutti i giorni fuori di casa, che è quello che poi oggi parliamo, le difficoltà sono sempre le stesse, ma negli anni 80 chi insomma c'ho un incidente non c'era, direi, il paese era diverso, negli anni 80 la gente insomma ci guardava in un'altra strada. Oggi è cambiato, oggi anche lo sport ha aiutato, no? Perché qui qualcosa è cambiato, ma io mi ricordo insomma cose che fanno male e che ti rimangono dentro. Per questo mi sono scordato che domanda mi avevi fatto, sto continuando a parlare. La scuola. Ah, ecco, dicevo, la scuola e la formazione. È chiaro che ho avuto la fortuna di avere una famiglia dietro le spalle che mi ha messo nelle condizioni di continuare a studiare. Incidente che stavo al quarto liceo scientifico, presumibilmente avrei potuto pure perdere l'anno. Mi ricordo che mia madre mi portava i libri in Austria per studiare, che normalmente sono rimasti sempre nel comodino dell'ospedale, però mi ha obbligato ad andare a fare la maturità, è andata a litigare con il preside perché io avevo superato il numero di assenze, cioè mi hanno fatto tornare dalla riabilitazione per andare due mesi a scuola a fare la maturità e mi hanno rispedito in ospedale dopo la maturità. Cioè mia madre ha fatto delle cose inenarrabili, però oggi gliele do atto, perché se avessi perso l'anno avrei perso la mia classe, avrei perso i miei amici, sarebbe stato tutto più difficile. E poi si sono, come dire, impegnati tanto nel farmi capire che comunque dovevo studiare, dovevo andare all'università, perché comunque la carrozzina era uno strumento che doveva portare avanti il mio cervello e trasportare il mio cervello, per cui tu devi professionalmente crescere, perché quello è soltanto uno strumento che ti trasporta, il tuo cervello è lo stesso di prima, per cui sotto questo profilo io sono stato molto fortunato. E per questo motivo che noi adesso come Comitato Paralimpico, sembra una cretinata, abbiamo fatto questa convenzione con l'università telematica che consente ovviamente anche spesso l'università, il problema io me lo ricordo, tutte le volte andavo per fare gli esami, dovevi fare trasporto su le scale, insomma, cose mortificanti. Abbiamo fatto come Comitato Paralimpico questa convenzione con l'università telematica per dare opportunità ai nostri ragazzi di fare percorsi universitari, per carità, qua poi c'è la diatriba tra le università, quelle che io definisco, beh, non lo posso dire perché se state riprendendo poi qualcuno mi... Però insomma, un'università telematica che consente quindi anche la preparazione online, quindi non necessariamente dovendo andare all'università, gratuitamente. E noi abbiamo una convenzione, 500 borse di studio da dare ai nostri atleti, a chi ne fa richiesta, ovviamente per crescere anche sotto il profilo professionale, perché è fondamentale questo, ma non tanto singolarmente per noi, ma per far crescere tanti altri ragazzi che attraverso poi una maggiore professionalizzazione, istruzione eccetera, possono magari far molto meglio di quello che abbiamo fatto noi. È come una famiglia, uno per i figli vuole sempre che facciano qualcosa di meglio rispetto ai propri genitori, poi alla fine ti rendi conto che basta che siano felici, facessero quello che gli pare, perché poi andare. Però oggettivamente uno tenta di trasferire sui figli la possibilità di andare sempre meglio. È quello che poi noi abbiamo fatto, scusa se poi adesso sto divagando, quando abbiamo aperto i corpi dello Stato agli atleti paralimpici. I corpi dello Stato sono quelli che voi vedete, gli atleti con le tute, polizia, fiamme gialle, eccetera. Quando noi eravamo giovani e io volevo entrare nei carabinieri, perché da lì a poco sarei entrato nel gruppo sportivo dei carabinieri, poi purtroppo c'è avuto l'incidente, mi sentivo rispondere, ma lei è disabile, lei è invalido, lei è handicappato, cioè i militari sono il massimo della fisicità. Esatto, che poi vedi certi militari diciamo certe panze, eccetera, però lasciamo il massimo della fisicità. Però noi quando abbiamo aperto i corpi dello Stato ai nostri atleti, non abbiamo fatto qualcosa di buono per loro, anche per loro, però è sempre nell'ottica della noi lavoriamo per qualcosa di ben più importante. Sapete che vuol dire per una scolaresca di ragazzi normali giudiziaria, un ragazzo paraplegico piuttosto che amputato, una tuta con scritto sopra polizia. Guardate che significa tanto, significa un paese che sta andando avanti, un paese che ha messo la tuta polizia. E l'altro obiettivo che mi sono posto, ma ci arriverò prima o poi, è quello di farli arruolare. Corpi speciali, ruoli speciali, ma così come i loro atleti compagni normodotati sono arruolati e pagano e guadagnano degli stipendi per fare gli atleti. E anche i nostri, perché sono diversi? Sono atleti come gli altri, si fanno, passatemi la volgarità, un mazzo così come tutti gli altri, anzi forse se ne fanno di più. E allora perché non pensare dei ruoli speciali anche della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria? Ma perché una persona grave o gravissima non può lavorare al computer e essere arruolato nella polizia? Ci sta una marea di gente che lavora, che penso che la volante non ha mai vista, non ha mai ancora visto. Stanno con i camici bianchi, ed è giusto, quelle sono le forze di polizia. E quante persone disabili, io conosco tanti amici miei, sono scienziati con i computer, sono una cosa straordinaria. E allora perché attraverso lo sport, con lo sport che diventa un grimaldello per aprire una porta, per dare opportunità? Pensate al gruppo paralimpico della difesa. Voi avete visto il 2 giugno sfilare gli atleti della difesa paralimpici, e quello va bene per loro, per un paese che magari i bambini dicono ma chi sono quelli in carrozzina che sfilano, non certo i nostri figli che sono abituati, lo raccontava il Monsignore, cioè, i miei figli in carrozzina vanno meglio di me, perché quando erano piccoli mia figlia la prima domanda che mi fece a 4 anni, dice papà quando sarò grande potrò avere una carrozzina pure io, perché per lei la carrozzina era il sinonimo dell'età adulta, quindi no, non per i miei figli, ma per i figli della nostra Italia che vedono dei ragazzi che sfilano il 2 giugno su via dei fori imperiali sulle loro carrozzine. E il racconto di quelle storie, quelli sono tutti ragazzi che hanno pagato con la loro incolumità le missioni di pace italiane in Afghanistan piuttosto che in Iraq, che ci hanno dato al paese, hanno pagato a caro prezzo con la loro fisicità al paese e le loro missioni di pace. Prima dello sport erano, sì, nei ruoli d'onore, ma erano accantonati. Con lo sport li abbiamo rimessi in pista, sono rientrati in servizio, sono non più nei ruoli d'onore, si sono rimessi tutti la divisa, ma non per onore, ma perché stanno facendo qualcosa. E questo soltanto in Italia sta succedendo questo. Cioè, nei paesi anglosassoni, che stanno molto più avanti di voi, ma non è così forte l'integrazione e la reinclusione come la sta facendo il Ministero, lo Stato Maggiore della Difesa in Italia, e nessuno lo racconta. Quando noi presentammo con la ministra Pinotti, Oscar, non se lo ricorderanno, pureremo, questa iniziativa, nessuno ne ha parlato, ne doveva parlare al TG1, doveva essere la notizia di apertura del TG1, un paese che dà la possibilità ai ragazzi che sono tornati senza gambe, ciechi, senza braccia, perché sono saltati sulle mine, perché stavano difendendo dei bambini in Afghanistan, li abbiamo rivisti su una divisa con la fierezza di portare quella divisa in quel tricolore, che oggi onorano come atleti, oltre che come militari. E questo si cambia un paese in questo modo. La nostra Monica Contraffatto era un letto d'ospedale, caporal maggiore dell'esercito, tornata dall'Afghanistan senza una gamba, perché in un attacco in Afghanistan, per difendere ovviamente la popolazione civile, alcuni militari nostri italiani, alcuni purtroppo hanno perso la vita, lei perse solo una gamba. Stava in un letto d'ospedale e vedeva le Paralimpiadi di Londra e ha visto Martina Gaironi, la nostra Martina Gaironi, amputata una gamba per un incidente col motorino per colpa di un pirata della strada, vincere i 100 metri piano piani nella categoria amputati. Monica Contraffatto in quell'ospedale guardava la televisione e magari in quel momento stava pensando che la vita era finita, la sua femminilità distrutta. Ha visto Monica Martina Gaironi correre e vincere e, anziché cambiare canale, ha detto: io voglio correre come lei, voglio andare alle Paralimpiadi come lei. La cosa più bella che io ho assistito, senza, non me ne tolgo, non me ne voglia nessuno dei miei atleti, a Rio de Janeiro io ero sulla pista perché sapevo che sarebbe successa quella cosa straordinaria. Martina Gaironi rivince le sue Paralimpiadi nei 100 metri piani e la Monica Contraffatto, che 4 anni prima stava in un letto d'ospedale a vedere Martina, arriva terza. E l'abbraccio con le maglie azzurre, col tricolore, di quelle due persone è la sintesi più bella di ciò che rappresenta il Comitato Italiano Paralimpico. La speranza che da un letto d'ospedale torni a sorridere. E anche se non vinci la medaglia, hai vinto un sorriso, vale la pena solo per quello. I giorni della Chiesa. E abbiamo ascoltato l'ultimo incontro di Cittadella Ascolta, questa serie di incontri dal titolo La Speranza Scartata. L'ospite era Luca Pancalli, 3 medaglie d'oro alle Paralimpiadi di Seul. Tema della serata, la speranza coltivata attraverso lo sport. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.